24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi l'ennesimo rinvio europeo sulla nuova tranche di aiuti alla Grecia, che pone più di un punto interrogativo sul futuro di Atene nell'Eurozona. Intanto, mentre la BCE non esclude più un taglio dei tassi di interesse, si ragiona sul possibile maxi piano di salvataggio dell'euro, pari a 2 o 3 mila miliardi, del quale si è discusso nel corso dell'ultimo G20 finanziario. Andremo in Spagna per la dissoluzione del Parlamento, che ha le porte alle elezioni di novembre, e in Francia, dove la sinistra conquista una storica maggioranza al Senato. Per lo sport oggi torna la Champions League. Prevale, come dicevamo, l'incertezza sulla crisi greca, dunque dopo che il portavoce del commissario europeo all'economia Olli Rehn ha annunciato lo slittamento della decisione sullo sblocco della sesta tranche di prestiti ad Atene, inizialmente attesa per l'Ecofin del 3 e 4 ottobre. Si tratta di 8 miliardi necessari per il governo ellenico, che ne ha bisogno per pagare gli stipendi pubblici. Sentiamo il portavoce europeo Amadeu Attafash Tardio. Circa i risultati della missione ad Atene, quando lo sapremo, comunicheremo la data della conclusione. Ci attendiamo che finisca presto, ma non c'è ancora una data precisa. Il lavoro sta procedendo, ma la data del 3 ottobre per la decisione sugli aiuti non potrà essere rispettata. La ripresa della missione ad Atene, infatti, è un primo passo. Poi la Troica deve avere il tempo per stilare il rapporto e consegnarlo agli Stati membri della zona euro, che inizieranno le discussioni. Siamo consapevoli dei problemi di finanziamento della Grecia, che affronta un momento topico per evitare il collasso. Ma è un processo che prende tempo. Non posso annunciare una data precisa, ma escludo che sia il 3 ottobre. La decisione è dunque nuovamente rinviata, anche per l'incertezza sulla tempistica dei lavori della Troica Europa BCE-FMI, che ha lasciato alcune settimane fa Atene in disaccordo con le misure che il governo ellenico intendeva prendere per risanare i conti. Stasera la cancelliera tedesca Angela Merkel e il premio greco George Papandreou si incontreranno a Berlino. Sempre la Commissione Europea ha definito irresponsabili le speculazioni circolate sulla stampa su un maxi piano da 2 o 3 mila miliardi per salvare l'euro, di cui si sarebbe parlato nel weekend alla riunione dei ministri finanziari del G20, migliaia di miliardi per salvare la moneta unica dal collasso e pilotare il default di Atene. Ma questo maxi piano sarà sufficiente per l'Europa? L'analisi di Franco Locatelli, direttore del sito firstonline.info. Dobbiamo verificare nelle prossime ore la concretezza dell'ipotesi di maxi piano da 3.000 miliardi per salvare l'euro. La concretezza e anche la velocità. Certamente il fine settimana ha rappresentato un salto di qualità per la crisi, una forte presa di coscienza che la crisi sistemica è nuovamente dietro l'angolo e che è questione di giorni, settimane. Naturalmente però questo piano consente di guadagnare tempo, di dare ossigeno, ma non risolve i problemi, perché i problemi stanno nella fragilità dell'euro, cioè senza un'unione fiscale e un'unità politica dell'Europa l'euro non sta in piedi, e stanno soprattutto nell'altissimo debito pubblico di molti paesi, a partire dall'Italia, e dall'assenza di crescita. Intanto la Banca Centrale Europea potrebbe nei prossimi mesi tagliare i tassi di interesse, così l'esponente del consiglio direttivo dell'Istituto Centrale Ewald Nowotny in un'intervista a Market News International. Chiusura in netto rialzo per le borse europee, incoraggiate dall'ipotesi di un maxi piano per combattere la crisi. Sui listini però non si è placato il nervosismo, con gli indici che hanno più volte cambiato direzione. Milano ha tirato la volata con il FTSE MIB in rialzo del 3,32%. Sentiamo. Chiusura e rialzo per le borse europee, incoraggiate dall'ipotesi di un maxi piano da 3.000 miliardi per combattere la crisi europea. Sui listini però non si è placato il nervosismo, con gli indici che hanno più volte cambiato direzione. Milano alla fine ha tirato la volata, con il FTSE MIB in rialzo del 3,32%. In Europa sono state gettonate le azioni delle banche, nonostante continui a serpeggiare il dubbio che numerosi istituti del vecchio continente debbano procedere a un nuovo piano di ricapitalizzazioni. A Piazza Affari Intesa San Paolo è salita dell'8,3%, Unicredit del 6,3% e UBI del 5,96%. È salita ancora BPM più 3,7% alla vigilia del consiglio di amministrazione chiamato a discutere la governance. Hanno inoltre spiccato il volo le generali più 5,6%, favorite anche dal giudizio confermato da Standard & Poor's, mentre sono andate relativamente male le azioni delle società considerate cicliche, come Fiat Industrial meno 1,6%, Fiat SPA invariata e Pirelli invariata. Terna ha registrato un progresso del 3,5%, beneficiando dell'apprezzamento del mercato per le indicazioni emerse dalla prima tappa del roadshow europeo che si è tenuta a Milano. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Ora in Spagna il premier Iberico Zapatero ha sciolto ieri le Camere, aprendo così la strada alle elezioni del 20 novembre. Ma perché il premier uscente, tanto amato nella prima parte del suo mandato, è arrivato allo scioglimento anticipato? Alfonso Botti, docente di storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Modena, Reggio Emilia. Ha portato certamente il precipitare della crisi economica e soprattutto, e questa è una sua responsabilità grave, l'aver tardato a riconoscere la gravità della crisi. Da questo tardivo riconoscimento della gravità della crisi sono scaturite le conseguenze, cioè dei ritardi nell'adottare delle misure, per cui è stata una rincorsa per assecondare le istituzioni europee e placare i mercati, il sostegno alle banche nell'ottobre del 2008, i tagli del maggio del 2010 del 5% agli stipendi, il congelamento delle pensioni, la riforma delle pensioni, l'imposta sul patrimonio di cui hanno discusso alcuni giorni fa. E purtroppo mi pare che tanti temi ci avvicinano in questo momento. Lei che sì, ne pensa? Con una sostanziale differenza, che mentre lì c'è stata una presa d'atto che un cambiamento del quadro politico avrebbe dato maggiori chance al paese e possibilmente rasserenato i mercati, questa consapevolezza in Italia non c'è. Restiamo in Spagna per una notizia più di colore, ma non solo. La Catalunya ha chiuso con le corride, che sono state bandite con una legge regionale che entrerà in vigore nel 2012. A Barcellona si è svolta l'ultima della stagione. L'ultima corrida all'Arena Monumental di Barcellona, con i suoi quasi 20.000 spettatori, è stata per il quotidiano El País uno psicodramma collettivo per un addio. Per El Mundo è stata una sbornia che ora però sarà difficile smaltire. Insomma, poche volte si è vissuto con tanta passione uno spettacolo di sangue e arena, dicono oggi i commentatori. Una miscela di rabbia ed emozione, di protesta impotente e nostalgia, con gli animalisti fuori dall'arena come sempre a protestare, ma sapendo di aver già vinto, e gli altri dentro a urlare inutilmente libertà. 6 tori e 3 toreri. Primo Juan Mora, gran nome della tauromachia iberica che ha affrontato da solo Burrenito, 540 kg di toro. Poi José Tomás, il matador loco, matto, temerario, vestito in oro e nero in segno di lutto. In chiusura, il giovane catalano Serafín Marín, il meno lodato dalla stampa, ma comunque l'uomo che ha dato la stoccata di grazia all'ultimo toro e alle tauromachie in terra catalana. A meno che il ricorso presentato contro la legge regionale alla Corte Costituzionale spagnola non cambi le carte. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per la prima volta da 50 anni a questa parte la sinistra ha conquistato il Senato francese, un sorpasso storico che rappresenta un grosso e preoccupante smacco per il presidente Nicolas Sarkozy e il suo governo a soli 7 mesi dalle elezioni presidenziali del maggio 2012. Marco Muzzanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, ci spiega cosa rappresenta questo cambiamento. Beh, ci sono due aspetti. Dal punto di vista concreto, in realtà abbastanza poco, nel senso che il Senato in Francia ha un ruolo nettamente subalterno rispetto alla Camera e quindi questo non cambia la sostanza delle cose e dei meccanismi legislativi francesi. Dal punto di vista politico invece l'impatto è sicuramente molto forte perché si trattava dell'ultimo test elettorale prima delle presidenziali di fine aprile, inizio maggio dell'anno prossimo e certo il fatto che la sinistra abbia conquistato per la prima volta nella Quinta Repubblica, dal 1958 il Senato era sempre stato in mano alla destra, che aveva conquistato la Camera Alta del Parlamento, è sicuramente un elemento di grande disturbo per la campagna elettorale di Sarkozy. E si è celebrata ieri la Giornata Europea delle Lingue, che è giunta al suo 10° anniversario. Gli europei, pensate, parlano un totale di oltre 200 tra lingue e dialetti. Sul portale euronet.eu tutti gli approfondimenti legati a questa ricorrenza. E chiudiamo con lo sport. Questa sera torna la Champions League. Siamo appena alla seconda giornata di Champions, ma per qualcuno è già tempo di verdetti. Per le italiane, ad esempio, l'Inter del nuovo timoniere Ranieri a Mosca contro il CSKA, dopo il KO all'esordio in casa col Trabzonspor, non può fallire. Il Napoli cerca al San Paolo contro il Villarreal la conferma della bella prova d'esordio a Manchester con il City. E domani il Milan, dei tanti infortunati, reduce dal pari a Barcellona, vuole a San Siro con i cechi del Victoria i tre punti per mettere al sicuro il passaggio del turno. Sempre nel gruppo A, quello del Napoli, big match a Monaco di Baviera tra il Bayern e i Citizen, privi dello squalificato Balotelli. Nel gruppo D, sempre stasera, sfida tra due grandi del vecchio continente, Real Madrid e Ajax. Ancora squalificato Mourinho, dopo il blitz di Zagabria, un altro successo metterebbe in cassaforte la qualificazione dei Blancos di Spagna. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Mauro De Angeli per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.